America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, devo dire, mercati in turbolenza, in grande volatilità. Ieri vi ho descritto la situazione così di grande paura a Wall Street, dove sono stati sfondati alcuni margini, sono state sfondate alcune barriere di resistenza e poi ieri invece c'è stata un'inversione di tendenza. Il Dow Jones è salito dell'1,41%, Nasdaq dell'1,97%, S&P 500 dell'1,7%. Perché? Beh, intanto perché diciamo c'è stato un messaggio di stabilizzazione per il settore energetico e dunque c'è stato un rialzo dei prezzi del greggio e dunque c'è stata una stabilizzazione che ha portato, l'aumento è stato del 4,2% per il settore energetico, che ha portato un po' di tranquillità su quel fronte. E poi anche sul fatto che la Federal Reserve, come del resto però sapevamo perché lo hanno detto mille volte, forse procederà con una politica di aumento dei tassi di interesse in modo straordinariamente graduale. Ricordiamolo, il mercato, persino Stanley Fischer della Fed aveva anticipato che forse ci sarebbero stati 4 aumenti quest'anno, ma non superiori all'1%, dunque tassi comunque molto contenuti. Qualcuno scommette che forse possono essere anche 2 o 3, e dunque questo ha dato una spinta psicologica positiva al mercato. Mercato dove però, e questa è poi la tematica forte di oggi, non hanno fatto bene i titoli del settore automobilistico, soprattutto quello di FCA in America e di Renault in Francia. Devo dire che questa è la settimana dell'auto. C'è stato il salone dell'auto a Detroit che è aperto lunedì. Barack Obama la settimana prossima sarà a Detroit per visitare ufficialmente questo salone. Nel suo discorso dello Stato dell'Unione ha messo al centro del rilancio del settore manifatturiero il caso di successo dell'auto, che l'anno scorso ha fatto vendite record. Quindi abbiamo parlato solo di auto e oggi abbiamo avuto alcune notizie che hanno portato agitazione. Sentiamo. Renault, the latest to feel that pain, its shares falling 23%. Ecco, la prima riguarda la Renault. C'è un caso Volkswagen anche in Francia, ma non lo sappiamo, però sappiamo che ci sono state le perquisizioni degli uffici. Il ministero ha detto che per ora non è stato trovato nulla, ma il mercato è preoccupato. Renault ieri ha chiuso a meno 10,28%. Altro caso curioso, bizzarro e secondo me francamente piuttosto strano. Sentiamo. Hey everyone, Dave Martinson here with Driving Sales News. A dealer group is suing Fiat. Ecco, un fulmine al ciel sereno per Fiat Chrysler Corporation, per FCA. E perché? Perché dei concessionari hanno accusato l'azienda di aver, come detto, commesso delle irregolarità di immatricolazione per far risultare un numero maggiore di vendite in un certo mese. Queste irregolarità comportavano anche un passaggio di denaro. La FIA naturalmente ha smentito, ma questa cosa chiaramente ha preoccupato. Perché? Perché i due concessionari hanno fatto causa alla Fiat. Allora, dopo una perdita addirittura del meno 7% a Milano, ieri New York ha chiuso a meno 4% perché Fiat Chrysler è intervenuta dicendo queste sono cose che non hanno alcun fondamento. Ecco, ma visto che dobbiamo parlare di auto, io ho con me ospite ai microfoni di America 24 in studio a New York, Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Ecco, Andrea è il nostro esperto e il grande esperto di auto del nostro quotidiano, del Sole 24 Ore. Andrea, tu sei reduce dal Salone di Detroit. Certamente, il Salone di Detroit che ha visto quest'anno il solito grande numero di novità e una grande attenzione alle nuove tecnologie. Ecco, sì, infatti si parla molto del ruolo delle tecnologie. Devo dire, Marchionne ogni tanto in modo provocatorio dice il futuro dell'auto è nella Tesla, il futuro dell'auto è nella Apple, in Google. Ma lo dice seriamente o così vuole essere provocatorio secondo te? Beh, questa settimana lo dicevano un po' tutti, dall'auto elettrica a quella che si guida da sé, alla connettività. Però diciamo che la realtà per ora è un'altra, nel senso che, come dice lo stesso Marchionne, le auto elettriche non si vendono senza grossi incentivi, perché il consumatore per ora non le vuole per limiti all'autonomia e per il loro costo elevato. Quindi bisognerà vedere come si evolverà il mercato nei prossimi anni. Quello che è certo è che tu hai citato prima il record di vendite sul mercato americano, il grosso di queste vendite, anche grazie alla benzina a mezzo dollaro al litro, sono sempre i grandi SUV pick-up che di benzina ne consumano tantissimo. Beh sì, 17 milioni e mezzo mi pare nel 2015, 17 milioni di auto. 17 milioni e mezzo, siamo risaliti sia pure di poco al di sopra del record storico precedente che era nel 2000, quindi di mezzo c'è stata la grande crisi e poi l'altrettanto rapida risalita. Ecco, apriamo solo una parentesi un momento, poi torniamo al sonore di Detroit perché mi interessano, interesseranno i nostri ascoltatori un po' le novità. Renault, ma insomma rischiamo che qui ci sia un altro caso Volkswagen e che questo caso Volkswagen poi vada a collassare l'intero settore auto, che poi questa cosa l'hanno fatta tutti? Chi può dirlo? Certamente Volkswagen, sappiamo che il caso è vero, la società l'ha ammesso e rischia multe molto grosse, soprattutto qua negli Stati Uniti. Il problema è che l'Europa tutta ha puntato sul diesel come motore ideale per ridurre i consumi e quindi le emissioni di CO2. Il diesel ha però altri problemi con emissioni di particolato, ossidi di azoto, eccetera. Quindi il sospetto, dopo il caso Volkswagen, che qualcun altro abbia potuto lasciarsi andare a trucchetti, c'è. Per ora, come hai detto tu prima, di Renault non c'è nulla di dimostrato, ma il crollo in borsa dimostra che il mercato è molto teso in questo molto momento. Vulnerabile sicuramente. Ecco, ho colto delle indiscrezioni qui a New York secondo cui il caso in effetti potrebbe riguardare più produttori, ma a quel punto la responsabilità potrebbe essere, senza fare nomi perché poi ognuno può avere fornitori diversi, ma potrebbe essere dei fornitori che danno questo particolare meccanismo che consente di misurare l'emissione sulla base del diesel. È una cosa possibile secondo te? Beh, nel caso della Volkswagen era appunto un software che molto semplicemente attivava i controlli più stringenti sulle emissioni solo nel momento dei test e li disattivava quando la macchina invece veniva guidata normalmente sulla strada, quindi permettendo all'auto di superare i test ma eliminando le riduzioni delle emissioni nell'uso normale. Ecco, veniamo a FCA, perché insomma questa è stata una botta forte, voglio dire. Quando Milano perde il 7, Wall Street, New York, il 4, vuol dire che qualche preoccupazione c'è. Qual è la sensazione che tu hai su questa cosa? Ma certamente è stato in attesa questa notizia e, come hai detto tu prima, Fiat l'ha smentita molto seccamente. Noi possiamo ovviamente in questo momento dare fiducia a quello che dice l'azienda, più che altro interpretiamo questa reazione del mercato in una situazione di record del mercato americano. Sappiamo che FCA conta sul mercato americano per il 90% dei suoi utili. Se anche il mercato americano fosse arrivato al picco dopo questo record e qualcuno comincia a prevedere un mercato piatto per il 2016 e magari un piccolo calo dall'anno prossimo, quindi un'inversione ciclica che è totalmente normale, su Fiat avrebbe sicuramente un effetto molto negativo. Forse è per questo che una notizia apparentemente poco rilevante come quella di oggi ha avuto un effetto così importante sul titolo in borsa. Bene, torniamo al salone, chiudiamo col salone, caro Andrea. Facci sognare, quali sono le novità, le nuove auto, non so, le nuove tecnologie? Le nuove tecnologie posso citare sicuramente una della General Motors, che poi è come molte altre auto di questo tipo presentate. La General Motors ha presentato un'auto elettrica, mi dirai tu non è una novità, che promette 300 km di autonomia e un costo soprattutto di soli $30,000 al netto degli incentivi statali. Quindi un'auto che in teoria potrebbe essere alla portata di molte più tasche. Quindi GM commette sul fatto di finalmente riuscire a dare a queste auto una diffusione molto maggiore. Ecco, diffusione maggiore che però ha bisogno dei ricaricatori, cioè tu dopo 300 km dove ti fermi? Cioè pensa alla General Motors di attrezzare, ci saranno ormai dappertutto i ricaricatori e quanto costano soprattutto rispetto alla benzina? Ovviamente questo rimane forse il problema maggiore, quello dell'autonomia e quindi di dove ricaricare. Teniamo presente che l'idea è vendere quest'auto, che è relativamente piccolina, soprattutto come auto da città, quindi per il pendolare che fa avanti e indietro, che fa magari un'ora o due di guida al giorno, per il quale quindi l'autonomia dovrebbe bastare, che può ricaricare la macchina a casa. Per il resto degli utilizzi, quello che è la moda del momento e quello su cui molti stanno scommettendo sono le auto ibride. La stessa FCA ne ha presentata una, un minivan disponibile anche in versione ibrida, dove ibrido vuol dire con un motore a benzina e uno elettrico, che permette di fare 50 km in modalità elettrica, quindi muoversi in città senza inquinare, e poi fare 500 km tranquillamente fuori città. Ecco, chiudiamo su questo. Cos'è che ti ha fatto sognare di più a Detroit? Qual è l'auto? C'è qualche auto del futuro, qualche prototipo? Ma prototipi ce ne sono sempre, c'è un bellissimo prototipo della Lexus, ce ne sono sia di auto giapponesi, c'è una Mercedes molto bella, classe E, nuova. Diciamo che comunque direi che mai come quest'anno l'accento è sulle nuove tecnologie, e al di là di quello che possiamo sognare noi come vecchi appassionati di automobili, credo che forse i giovani siano attualmente più attratti dall'ultima novità in campo tecnologico. Non è un caso che oramai tutti i grandi dell'auto vadano a presentare queste auto prima a Las Vegas, al Consumer Electronics Show, che non a Detroit. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo con noi Andrea Malan, ancora ai microfoni, America 24, qui in studio con noi a New York, reduce da Detroit. Andrea, una canzone, come dire, in sintonia con la tua missione. Non possiamo che, avendo parlato di auto, non possiamo che suggerire Drive My Car dei Beatles. Drive My Car dei Beatles. Ottima scelta, Andrea, fantastico. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!